posso ancora respirare. Parole spese a volte senza un senso, frasi che rimangono nell'animo, impresse nello spirito, vecchie amicizie che riaffiorano, mani che ora cercano un contatto verso il prossimo, decisioni prese senza più morale, ci riducono, inducono ad un pensiero senza una finale, giorni passano veloci senza sosta, ore che rincorrono momenti senza una risposta, luci basse sulla strada col tepore della sera, sguardi complici si infiammano come una fiamma vera. Non ci si ferma più a riflettere e pensare, bisogna respirare per non lasciarsi andare. Ci vuole tempo per cucire le ferite, ci vuole amore per riempire poi le nostre vite, colme di odio e di rancore verso chi non ci vuole ascoltare, ma solo rinnegare. La nostra strada molte volte arriva a un bivio e noi distratti sopra quella strada ci perdiamo nel suo interno e nel centro, fermi ad aspettare immobili come un bambino che oramai si è perso. E posso ancora respirare, boccheggiavo per restare a galla, e posso ancora la respirare, pazienza non è mai abbastanza, posso, ma posso ritornare a respirare in ogni momento, non è soltanto un sogno, la brezza del mattino, e torno ancora a respirare, trovo il mio battito ideale, guardo avanti e vedo un giorno nuovo, artigli sull'asfalto per rimanere vivo, non basta solo il mio respiro, io ti voglio qui davvero, ti voglio, sono sincero, sei solo tu il mio siero, mi perdo nei tuoi occhi, con te mi sento un po' bambino nel paese dei balocchi. Sogno un mondo nuovo da cui possa attingere, un mondo dove posso ancora credere, ridere, piangere, mimetizzato tra la folla, ascolto la tua voce per rimanere a galla, le mille luci delle giostre che ora girano mi fanno tornare indietro su quell'attimo, seduti sopra il mondo, noi due insieme a far da sfondo, in questa notte magica, aria incandescente sempre più elettrica. Non penso, non ansia, dammi un soffio del tuo amore immenso, luci che si accendono all'istante mentre tutto attorno è fermo, nella penombra della sera, amanti che si incontrano perché non sanno vivere una vita vera, momenti fragili, fotografie perse, minuti indescrivibili, immagini distorte, tutto intorno a noi scompare nella nebbia di una mattina sulla spiaggia che oramai si è persa, stringi forte le mie mani, stammi sempre più vicino, non lasciarmi andare, non voglio più rimanere da solo, l'amore che ci lega è un filo indistruttibile, il rispetto che portiamo è un legame inattaccabile, come un'onda d'urto dopo un'esplosione che colpisce tutto e non ci lascia più scappare, pensieri che si uniscono, frasi si compongono, parole che si scrivono sul quaderno dei ricordi con fotogrammi impressi, nella memoria resta il primo giorno che ti ho visto, raggio di sole in mezzo a tutto questo deserto che circonda i miei pensieri più profondi, dissolve le mie idee laggiù nei bassi fondi di una città che muore, non ti lascia immaginare neppure respirare. Yeah.